c'è scritto nella norma 33, l'articolo 33 della legge che sta in discussione in Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, è una norma identica ad esempio alla norma che fece la regione Sicilia nel 2016 e che la Corte Costituzionale bocciò perché legittima con sentenza 232 del 2017. È una norma identica tra l'altro al tentativo di condono edilizio che fece Conte nel decreto semplificazioni e che fu stralciata in seguito alla mobilitazione degli ambientalisti, dei Verdi, ma devo dire anche dello stesso Partito Democratico a livello nazionale, che attraverso il vice segretario Orlando chiese lo stralcio di quella norma. Di che cosa si tratta? È un meccanismo estremamente semplice, ma devo dire molto intelligente. In sintesi si dice che chi ha commesso l'abuso, se al momento della valutazione del condono lo strumento urbanistico è coerente con l'abuso realizzato, allora chi ha commesso l'abuso può presentare domanda di sanatoria. Se invece non fosse coerente, allora può essere fatta una variante urbanistica che sana quell'abuso. È un modo per consentire abusi anche di importante entità, visto che nella norma dell'Emilia Romagna non sono messi alcun tipo di limite. Dalla regione si giustificano dicendo che non c'è nessun condono, ma un aiuto amministrativo ai comuni per i condoni approvati con le leggi statali nel pieno rispetto della disciplina vigente. Cosa rispondete? Sono veramente esterrefatto. Nella vita bisogna assumersi la responsabilità di ciò che si scrive. Non vado oltre perché voglio essere una persona educata. Nell'articolo 33 c'è il condono edilizio, a tal punto che c'è scritto. Si parla di regolazione e regolarizzazione di immobili realizzati abusivamente, quindi francamente non si può dire una cosa che non sta in cielo in terra. È un fatto estremamente grave, quello che, di cui noi siamo preoccupati è che questa legge possa determinare un effetto imitazione in tante regioni. Pensiamo al centro-sud dove il tema dell'abusivismo edilizio è molto importante, dalla Campania alla Sicilia, insomma potranno dire beh ma l'ha fatto l'Emilia Romagna, perché non lo possiamo fare noi? Noi siamo molto determinati a fare battaglia insieme alla nostra consigliera regionale Zamboni e da questo punto di vista siamo già pronti a scrivere il ricorso, come del resto abbiamo fatto per la Sicilia e la Campania, dove poi la Corte Costituzionale ci diede ragione. Sono norme fotocopia e francamente questo non è quello di cui ha bisogno l'Italia per rilanciare la propria economia. Ecco, a proposito di battaglie in Consiglio regionale, diciamo i Verdi e le componenti più di sinistra della maggioranza già hanno battagliato sulle proroghe per la contestatissima legge urbanistica che è stata venduta come una legge a consumo suolo zero, in realtà dava deroghe su deroghe. Quindi diciamo il cemento è un punto debole della giunta Bonaccini? Beh, allo stato attuale mi pare proprio di sì. Dall'altro non solo, nonostante lo stralcio, sempre nel famoso articolo 33, è possibile ad esempio che pezzi di palazzine abusive, alberghi, strutture ricettive possano essere demolite e ricostruite in un altro luogo, ma addirittura con un premio di volumetria. A me da piccolo hanno sempre insegnato che rispettare le leggi era un dovere, chi non le rispettava doveva pagare conto, anzi qui in questo caso non solo non paga conto, viene sanato ma viene anche premiato con aumenti di volumetria. Quindi potrebbe produrre nuovo cemento comunque questo articolo? Assolutamente sì, l'articolo 33 non solo produce nuovo cemento ma come le dicevo prima introduce un condono edilizio che non è tanto mascherato, è evidente e c'è una giurisprudenza consolidata rispetto a questa fattispecie di norma su cui la Corte Costituzionale si è già espressa. Io inviterei in queste ore, domani so che si voterà in Consiglio regionale, la Giunta e il Consiglio regionale a riflettere attentamente su quello che stanno votando. Quella norma può determinare un effetto imitazione a catena in tutta Italia. Sarebbe veramente devastante dal punto di vista, diciamo, del rispetto di quei cittadini onesti che le leggi le hanno rispettate, ma principalmente nei confronti dell'ambiente e del territorio che non ha bisogno di nuove colate di cimento. Ha bisogno proprio di rigenerazione urbana. Però vede, se la rigenerazione urbana viene utilizzata per introdurre queste norme, allora cascano le braccia.